strade e motori di Massimo De Donato. Una mobilità nuova, caratterizzata da infrastrutture connesse ai veicoli, da veicoli in cui il ruolo del conducente sarà sempre minore e da traffico più ordinato e regolare. È questo il modello di smart mobility su cui stanno lavorando ormai i principali paesi nel mondo. L'Italia non fa eccezione. E il 2018 è stato un anno molto significativo in questo senso, grazie a una serie di provvedimenti normativi che hanno dato il via alla sperimentazione della guida autonoma anche da noi. Ripercorriamo le principali tappe. A marzo il decreto Smart Road ha autorizzato sia l'adeguamento della rete infrastrutturale italiana in chiave digitale per permettere la connessione con i veicoli automatici, sia i test in ambito urbano per questo tipo di mezzi. Il documento fornisce anche una serie di standard funzionali che le strade di interesse nazionale, comprese le autostrade, dovranno man mano garantire mediante l'uso della tecnologia e indica una tempistica da rispettare per questo. A ottobre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso nota poi la documentazione necessaria per partecipare alla sperimentazione. Università, enti pubblici e privati di ricerca, case costruttrici possono richiedere di intervenire in questa fase. Le regole però sono molto strette e nelle domande devono essere ben chiari sia i luoghi in cui si vogliono effettuare i test, sia le autorizzazioni dell'ente che gestisce le strade in questione. Vista la delicatezza del sistema e le implicazioni anche in termini di sicurezza, è stato istituito presso il Ministero anche un osservatorio tecnico per coordinare a livello nazionale tutte le varie attività locali di sperimentazione. Fra i suoi compiti c'è anche la promozione di approfondimenti e di ricerche per rendere più efficiente questa fase e garantire la massima sicurezza agli utenti della strada. Ed è Torino la prima città che si è candidata per la sperimentazione che ha avuto luogo lo scorso novembre. Intanto a Roma ANAS ha siglato un accordo quadro per la trasformazione in chiave smart del grande raccordo anulare e della Roma-Fiumicino Aeroporto, un passo senza il quale la guida autonoma non sarebbe possibile. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, una puntata speciale, quella di oggi dedicata al mondo dell'auto e della mobilità, perché oggi ci occuperemo in particolare di un tema che sta caratterizzando il dibattito su questo settore nell'intero mondo, quindi non solo in Europa e in Italia. Parliamo della guida autonoma. Cercheremo di capire questa sera a che punto siamo e quali sono soprattutto le prospettive a breve termine per questo tipo di mobilità. E cominciamo con il nostro primo ospite, che è Mario Nobile, responsabile dei sistemi informativi del Ministero dei Trasporti, ma soprattutto coordinatore dell'osservatorio istituito presso il Ministero dei Trasporti sulle cosiddette smart roads e quindi sulla guida autonoma. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora, per una volta l'Italia non arriva ultima, non siamo i primi, ma sicuramente, come si diceva prima, siamo in Champions, quindi è un dibattito che si è aperto nel nostro paese. Abbiamo già legiferato in qualche modo, già da inizio anno esiste una normativa che riguarda la guida autonoma in Italia. Nelle ultime settimane addirittura ci sono i moduli per la sperimentazione e sono già arrivate le prime domande. Ma facciamo un passo indietro e cominciamo con l'inquadrare l'Italia in questo dibattito così importante sulla guida autonoma, perché l'Italia, come dicevamo, ha oggi una normativa specifica sul settore. Che cosa prevede? La normativa prevede la possibilità di sperimentare su strade pubbliche veicoli a guida autonoma sempre con la presenza di un supervisore a bordo. Quindi in questo momento non usiamo il livello 5, le ricorda che abbiamo una scala di livelli che arriva fino al livello 5, dove potenzialmente potrebbero non esserci pedali o volante all'interno del veicolo. Questo con il livello 5? Con il livello 5. Attualmente invece le auto che vediamo in circolazione fino a che livello arrivano? Un livello 3, dove il guidatore deve comunque mantenere l'attenzione, ma degli ausili alla guida molto precisi e molto spinti, quindi può riuscire a mantenersi all'interno della corsia, può riuscire a distanziarsi dai veicoli che lo precedono, può effettuare anche delle manovre di emergenza in termini di frenata o in termini di comportamento appunto dinamico del veicolo. Noi all'interno del decreto che lei citava, che è del febbraio 2018, abbiamo previsto che chi dovrà domandare, quindi effettuare domanda per la sperimentazione della guida autonoma, deve dimostrare al Ministero una certa esperienza su circuiti chiusi o su aree di prova non aperte al pubblico, deve dimostrare la solidità tecnologica, perché ricordiamo sempre che tutte le sperimentazioni che vediamo nel mondo vanno ad applicarsi su un veicolo già omologato, quindi un veicolo già pronto a circolare su strada. A un veicolo pronto a circolare su strada gli viene applicato uno strato tecnologico, degli ulteriori elementi tecnologici come telecamere, radar o altro, per aiutarlo ad avere una visione completa del mondo. Ovviamente questo porta a una mole di dati che è praticamente non intellegibile da un essere umano, ma porta l'algoritmo di guida ad avere tutte le informazioni per supportare il guidatore in questo momento a una ottimale gestione della guida e del transito sulle strade. Il punto importante è di evidenziare che il supervisore a bordo ha comunque il controllo del veicolo ed è responsabile di tutto quello che succede. Cosa che però non è successa in alcuni incidenti recenti. In altri paesi, ovviamente, non parliamo dell'Italia. In altri paesi recentemente è successo che per evitare, questa è stata la motivazione, per evitare un comportamento erratico del veicolo, questo era scritto nei rapporti internazionali che abbiamo potuto visionare, erano state disabilitate, nel caso di un recentissimo incidente, erano stati disattivati i sistemi di protezione attiva del veicolo. Questo per evitare che il veicolo si comportasse in maniera casuale o non precisa. Questo ha però comportato che, nonostante ci fossero degli apparati di bordo in grado di prevedere quell'ostacolo, non siano partite le frenate automatiche d'emergenza. Con le conseguenze che tutti conosciamo. Esattamente. È corretto dire che questi incidenti hanno un po' rallentato l'attenzione sulla guida autonoma? Prima se ne parlava forse molto di più. Hanno rallentato e probabilmente hanno creato anche una insicurezza che, a mio modo di vedere, non ha ragione di esistere, perché tutto ciò che è tecnologia ed è innovazione può portare a dei rischi. Nel caso della guida autonoma, sbagliare significa aumentare. C'è un recente studio che ho avuto modo di vedere, internazionale, che fa vedere come sia cambiata la percezione del viaggio aereo. Negli anni 70, prendendo una torta, i tre quarti della torta, il 75%, erano diffidenti nei confronti degli aeromobili, mentre il quarto rimanente era sufficientemente fiducioso. Oggi si è invertita questa tendenza, per cui i tre quarti delle persone normalmente si fidano del trasporto aereo, che è uno dei modi di trasporto più sicuri. Oggi, nel campo della guida autonoma, siamo nella situazione degli aerei degli anni 70, cioè i tre quarti delle persone, tra cui anche io e lei, che non siamo evidentemente dei millennials in termini anagrafici, hanno una certa diffidenza. Noi ci aspettiamo un'inversione, ma sono processi che anche culturalmente hanno bisogno del loro tempo. Non vi nascondo che anch'io, la prima volta che sono salito su un veicolo a guida autonoma, ho avuto un po' di apprensione, abituato a guidare e ad avere il controllo della situazione. Sì. Ecco, a proposito di questo, lei prima diceva c'è bisogno di tanta tecnologia, questi veicoli hanno delle dotazioni tecnologiche ovviamente impressionanti, però ci sono dei temi che sono un po' laterali e che però sono centrali, ad esempio il tema etico. C'è un famoso una famosa teoria, il famoso dilemma del carrello, che è la scelta che deve fare la macchina quando si trova davanti a delle condizioni di pericolo simultanee. Ecco, come si risolve questo problema? Questo è un problema annoso e direi filosofico, appunto, già dai filosofi, insomma, di qualche millennio fa si è iniziato a ragionarne. È un tema molto complicato, perché l'uomo ha delle attenuanti. Se purtroppo può succedere, commettiamo un incidente, in termini anche di responsabilità, il giudice può valutare la nostra imperfezione in quanto esseri umani. La macchina è un algoritmo, la macchina deve avere delle regole e deve decidere. Il dilemma del carrello che lei citava si applica banalmente se un bambino attraversa la strada fuori dalle strisce perché insegue un pallone. L'auto in quel caso cerca di evitare il bambino, mettendo a repentaglio la sicurezza e la salute della persona che è a bordo, che può essere anche il proprietario, oppure in ogni caso cerca di evitare l'incidente ferendo potenzialmente il bambino. Su questo c'è una necessità di discussioni molto alte. È un tema simile al tema relativo alla genetica e a, ricordate, i vari dibattiti che si sono succeduti rispetto a pecore clonate, a organi di esseri umani clonati. È un dibattito etico che va affrontato. Etico. Indubbiamente la macchina ha bisogno di regole. Quali sono le regole che diamo? Vi racconto anche un piccolo aneddoto. Ci sono degli studi internazionali, uno degli ultimi è dell'MIT di Boston, che simula questi queste decisioni etiche a una certa platea di persone. Poi rifà la domanda a queste persone dicendo: in quel contesto il bambino con la palla era tuo figlio. E quindi addirittura le stesse persone, questo è dimostrato scientificamente, modificano la propria percezione, la propria valutazione a seconda che la persona in questione, quindi il bambino che attraversa la strada fuori dalle strisce, sia o meno il pallone, collegato, sia o meno collegato, esatto. E quindi invece qui c'è bisogno di una macchina che ovviamente non ha dei collegamenti diretti o parentali con le persone, esatto, ma che deve scegliere qual è la cosa più giusta da fare. E per questo, se non sbaglio, in Germania sono nate addirittura delle commissioni con non solo dei tecnici, ma anche dei docenti e anche dei esperti di religione, perché anche questo è un tema che entra in questo discorso. Assolutamente sì. La Germania, nell'ultimo G7 trasporti che abbiamo ospitato in Italia a Cagliari nel 2017, ha prodotto agli altri membri del G7 un documento della commissione etica che è stata istituita. E sostanzialmente l'inizio di questo documento ricorda un po' le leggi di Asimov, nel senso che viene evidenziato come al primo posto ci sia la tutela e l'integrità dell'uomo. È difficile poi dettagliare e stabilire le regole, sui principi di massima siamo tutti d'accordo. Ovviamente tutto questo discorso, poi, abbandonando la parte etica, va riportato anche sul fronte assicurativo, che è un altro tema particolarmente caldo. Per esempio nel caso dell'ultimo incidente che ha riguardato la Tesla, poi alla fine si è deciso che la responsabilità era comunque del guidatore, anche se non era in quel momento al comando. Era distratto o comunque stava vedendo un film. Il tema dell'assicurazione è fondamentale, perché non soltanto c'è un tema di obbligo di tutelare le persone che sono al di fuori del veicolo, ma in questo caso il concetto di tutela anche dell'occupante del veicolo, ancorché abbia dei comportamenti sbagliati o un torto, è fondamentale. Certo, e ovviamente questi sono temi che seguiremo con grande attenzione anche nel futuro. Noi intanto salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite della puntata, l'ingegner Mario Nobile, coordinatore dell'Osservatorio sulle Smart Roads del Ministero dei Trasporti, e andiamo avanti parlando di guida autonoma. E ci sono delle buone notizie anche sul fronte della smart mobility e della sicurezza, questo perché Ford ha appena realizzato uno studio basato sui big data inserito nel Ford City Data Report per identificare le aree a maggiore concentrazione di incidenti stradali, e questo per fornire alle autorità e ai cittadini informazioni utili per programmare interventi più mirati di prevenzione. Quindi siamo alla cosiddetta sicurezza predittiva. Questo viene applicato per ora a Londra, ma probabilmente avrà presto delle applicazioni anche nel resto d'Europa e chissà, forse anche in Italia. Ma per saperlo abbiamo qui con noi il nostro ospite Marco Alussafi, che è il direttore delle relazioni esterne di Ford Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera e grazie a voi per avermi invitato. Allora, cominciamo con il raccontare che cos'è questo meccanismo preventivo che, basandosi sui big data, quindi su questa raccolta massiva di informazioni che riguardano gli spostamenti ma anche gli incidenti in un'area, è in grado addirittura di predire gli incidenti. Allora, cominciamo col dire che questo progetto si inserisce in una serie di sperimentazioni legate più o meno direttamente allo sviluppo della guida autonoma che Ford sta svolgendo in varie aree del mondo, soprattutto in Nord America, ma anche in Europa e qui in questo caso soprattutto in Inghilterra e a Londra in particolare. Qual era, diciamo, l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo era quello di valutare non dimostrare perché non c'era bisogno di dimostrarlo, ma di valutare la potenzialità dell'utilizzo dei dati raccolti attraverso questi trasmettitori di fatto che sono o che diventeranno le vetture del futuro, essendo ormai connesse verso l'esterno fra loro e verso tutte le infrastrutture che si doteranno di sistemi di trasmissione. Ora, l'esperimento è stato portato avanti con una flotta di 160 veicoli commerciali, con degli autisti che si sono ovviamente su base volontaria offerti per fare questo lavoro, e per cui raccogliere i dati di spostamento quotidiani, dati relativi alle frenate, dati relativi alle velocità medie, chiaramente ha consentito di mappare la città secondo certi criteri che poi uniti ai dati sull'incidentalità forniti dalle autorità locali ha consentito di creare dei veri e propri zone di tra virgolette allerta, perché evidentemente sono quelle in cui si concentrano magari degli incidenti. Esatto, e degli orari e degli incidenti e in alcuni orari particolari. È chiaro che questo è un esercizio estremamente interessante, ovviamente, che ovviamente per il momento è localizzato, ma che dà il polso di quello che è la potenzialità di questi dati raccolti attraverso queste vetture connesse. Ecco, come dicevi tu, tutto questo si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio che è quello della guida autonoma. Noi abbiamo ascoltato all'inizio della nostra puntata di oggi dalla voce di Mario Nobile, responsabile dell'osservatorio sulle smart city del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come il progetto di guida autonoma in Italia ormai sia una realtà più che solida, visto che siamo già ad una fase di sperimentazione avanzata. Come si sta muovendo Ford in questo settore? Allora, noi abbiamo sicuramente abbiamo cominciato già da ormai qualche anno, soprattutto nel Nord America, ma nel Nord America non solo perché è un po' la nostra ovviamente casa madre, è di lì originaria, ma anche perché proprio per il peso specifico anche che la Ford ha negli Stati Uniti, chiaramente le strade spianate per poter trovare delle aree e dei supporti anche per sperimentare questo tipo di guida sono state più facili da reperire, ovviamente. Le sperimentazioni vanno di pari passo con la disponibilità di infrastrutture e la disponibilità delle autorità locali a rendere disponibili queste infrastrutture, perché è ovvio che queste vetture che un domani vedremo sulle nostre strade sono vetture che non possono prescindere, ancorché le case automobilistiche facciano tanto per fare in modo che queste possano anche prescindere dalle infrastrutture, ma un minimo di collegamento comunque con le infrastrutture che le circondano devono averlo, perché altrimenti non si rendono conto di dove stanno. Quindi noi abbiamo creato delle aree, delle sorta di set cinematografici, quelle abbiamo chiamato M-City, che è una sorta di città ricostruita dove chiaramente abbiamo creato la situazione ideale, quindi tutti i vari, il famoso Internet of Things lì raggiunge l'apice, perché tutti gli oggetti sono collegati e tutti dialogano con le vetture, e quindi le vetture sono immerse in un ecosistema che parla in continuazione e che quindi può scambiarsi informazioni. Poi abbiamo allargato questa sperimentazione a città, in alcune città, in particolare a Miami, dove sempre in ambienti comunque circoscritti e protetti, però stiamo sperimentando la consegna a domicilio di prodotti con dei veicoli commerciali a guida autonoma, che secondo noi è la prima frontiera della guida autonoma. Ecco, questo è stato il passo ulteriore. In Europa questa sperimentazione sta cominciando, ma è ancora non è a questo livello, perché comunque le città europee sono molto più complesse da mappare rispetto a quelle statunitensi, perché comunque le infrastrutture spesso non sono esattamente della stessa altezza. In Italia noi ancora come Ford ufficialmente non abbiamo fatto nessun tipo di sperimentazione. Chiaramente quello che dicevo, qui in Italia trovo un po' una difficoltà aggiuntiva, se vogliamo, perché le infrastrutture che comunque hanno la loro importanza ma così come anche banalmente la segnaletica stradale e le condizioni stesse delle strade purtroppo non sempre aiutano, e non ci scordiamo che queste macchine guardano con degli occhi elettronici, ma se non vedono niente, e parlo di strisce stradali o di segnali coperti magari da alberi non potati, diventa complicato fare in modo che si orientino o che frenino quando debbano frenare. Ecco, questo certo, è il problema. Certo, basta poco effettivamente perché il sistema, che è un sistema automatico, non funzioni, e purtroppo ci sono stati anche degli incidenti recentemente che hanno in qualche modo dimostrato come piccole disattenzioni del sistema poi possano avere delle conseguenze disastrose sul piano dell'infortunistica stradale. Torniamo invece alle auto di casa Ford. Quali saranno i primi modelli su cui monterete dei sistemi di guida automatica, perlomeno di classe 3, quindi di guida semi-automatica, tanto per dare una traduzione in termini nazional popolari? Allora, noi in questo momento abbiamo appena terminato, diciamo, una prima parte del lancio della nostra nuova Focus. Ecco, la Focus per noi è un po' un cavallo di battaglia a questo punto di vista, nel senso che noi l'abbiamo definita internamente la miglior Ford di sempre, e il motivo per cui l'abbiamo definita così è perché il contenuto tecnologico è assolutamente elevatissimo, e il contenuto tecnologico più rilevante è quello che noi abbiamo raggruppato sotto un cappello denominato Copilot 360. Questo sistema Copilot, che comprende radar, telecamere, sensori, è un sistema che nel suo complesso offre già delle caratteristiche che sono di semi-autonomia della vettura, cioè non si può prescindere ovviamente, certo, ancora ovviamente, dal pilota, però siamo già un passo diciamo avanti. Questa è una vettura che può camminare col sistema di controllo della velocità adattivo con lo stop and go, quindi cammina, si mantiene al centro della carreggiata, segue il profilo della carreggiata righe permettendo, e rallenta e si ferma anche fino a 3 o 4 secondi per poi ripartire. Quindi siamo già a un livello di semi-autonomia importante. Il sistema Copilot 360 verrà reso disponibile ormai da qui in avanti su praticamente tutte le macchine che verranno lanciate. Quindi è ovvio che il nostro concetto è un po' quello anche di in qualche maniera portare i consumatori, quindi i conducenti, a prendere coscienza di questa tecnologia, a cominciare a familiarizzarci, certo, perché sarà un processo che non può essere un processo brusco, deve essere un processo graduale. Ancora oggi tante tecnologie già presenti sulle vetture, non parlo solo di Ford, quindi però diciamo specificamente le nostre, sono anche qualche volta complicate da spiegare, e soprattutto alla fine non vengono utilizzate perché non si ha la confidenza, non si ha la tranquillità di farlo. Quindi c'è ancora questo passaggio culturale da fare, quindi è un passaggio che si farà gradualmente e che chiaramente porterà a prendere coscienza, certo, del fatto che un domani una macchina potrà guidare per conto suo, insomma. Ecco, a proposito di questo passaggio, c'è un dibattito però legato al grado di attenzione che in questo momento è necessario porre alla guida, e di come questo grado di attenzione potrebbe in qualche modo essere abbassato dalla sicurezza di avere dei sistemi di guida automatici che poi in qualche modo intervengono a correggere i nostri errori. Cosa pensi di questo? Direi che, almeno nel nostro caso, i sistemi sono tutti sistemi che in qualche maniera monitorano costantemente l'attenzione del conducente. Ad esempio, se uno stacca le mani dal volante perché si affida al sistema di controllo di velocità adattivo con anche mantenimento della corsia, il volante immediatamente segnala l'assenza delle mani e manda un primo segnale, un secondo, e poi alla fine stacca il sistema di guida automatico, per cui non è possibile in questo momento prescindere. È ovvio che tutti questi sistemi vengono fatti per togliere determinati stress al conducente, senza però per questo volerlo far rilassare al punto da distrarsi, certo, in continuazione, per cui è ancora necessaria una grande attenzione, assolutamente, ovviamente, senza le quali generalmente, nel nostro caso sicuramente, i sistemi si disinnescano e smettono di funzionare. Bene, termina qui anche questa nostra puntata speciale di Strade e Motori dedicata all'auto autonoma e alle nuove tecnologie a bordo. Ringraziamo e salutiamo gli ospiti che si sono alternati ai nostri microfoni. Ringraziamo Marco Alussaffi, direttore relazioni esterne di Ford Italia, l'ultimo che ha, come dire, parlato e che è intervenuto in questo nostro speciale. Strade e Motori ritorna come al solito nel suo appuntamento tradizionale il sabato, quindi sabato prossimo alle 22. Buona serata e buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. We'll be right back.